sarà un semestre molto difficile perché i francesi avevano dei piani, come dire, molto dettagliati e anche ambiziosi per portare avanti il discorso su alcuni temi molto importanti per l'Unione Europea. In questo momento comunque l'attenzione è soprattutto sull'Irlanda e che cosa fare col trattato, per cui sarà per loro un compito molto ingrato, vorrebbero portare avanti l'Unione, ma sarà molto difficile finché non si intravede un'uscita dal problema posto dall'Irlanda. E il fattore sorpresa Sarkozy potrebbe scattare, come dire, non è certamente un uomo politico legato ai vecchi schemi. Lui potrebbe tentare di avere dei risultati concreti, ma un'altra cosa che renderà il progresso molto difficile è che il governo irlandese probabilmente dirà quasi dappertutto: ah, meglio non fare niente perché il secondo referendum, se no, produrrà un altro no. Perché una cosa viene data per certa qui a Bruxelles, che ci dovrebbe essere un nuovo referendum in Irlanda, perché senza la ratifica in Irlanda non si può andare avanti.